gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jingolino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Avvisiamogli agli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto! Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la RAI, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici RAI, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie. E l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano, l'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto. Una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia. Una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie. Ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio, Radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie, quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e noi ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao. RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.